Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Elisa Pedrazzoli, l'azienda di famiglia e il sogno del biologico, di Alessandra Scaglioni. Elisa Pedrazzoli rappresenta la quarta generazione di famiglia alla guida di un'azienda che produce salumi, oggi soprattutto biologici. L'azienda è nata all'inizio degli anni 50 e tutto parte da una macelleria. La storia dell'azienda è nata da mio bisnonno, che aveva 3 figli e avevano una macelleria. Dopodiché, da piccola macelleria che macellavano per il fine, diciamo, del negozio, hanno pensato di cominciare a vendere anche ad altre macellerie, ad altri negozi di macellare, quindi insomma rivendere i prodotti in questo modo qua. E come spesso accadeva, la vita della famiglia e quella dell'azienda, in quegli anni specializzata nell'allevamento e nella macellazione, erano intrecciate. Sicuramente la prima parte della vita dell'azienda, cioè i primi 20 anni, è stata forse più dura dal punto di vista lavorativo, perché comunque una volta si lavorava di forza, no? Le famiglie erano famiglie allargate, dove c'erano le nuore che lavoravano assieme ai mariti, cioè erano 3 figli maschi e ognuno con la sua moglie vivevano tutti insieme, coi figli anche. Diciamo che mio bisnonno diceva sempre che era il macello delle mogli, delle donne e dei bambini, perché soprattutto lavoravano le mogli e i bambini, perché una volta insomma l'uomo aveva un ruolo diverso all'interno delle famiglie, perché noi l'azienda praticamente è sempre stata parte integrante della vita di ognuno, ecco. Nel percorso di crescita ci sono momenti di sviluppo, come ad esempio il passaggio dall'attività di commercio a quella di azienda e da realtà locale a realtà che si muove su un territorio più ampio. Il momento più difficile è negli anni 90, quando l'azienda cambia la sua produzione e la sua struttura, da allevamento e macellazione ad impresa a ciclo completo, con produzione e vendita di prodotti a marchio. Sicuramente fino a quando sono entrata io, quindi a fine anni 90, l'azienda era strutturata in maniera completamente diversa, cioè noi eravamo allevatori prima di tutto e macellatori. La storia della nostra azienda inizia così. Poi ci sono stati momenti molto difficili all'interno dello sviluppo dell'azienda, perché la macellazione sicuramente non aveva il reddito che speravamo e quindi o si decideva di crescere ulteriormente, quindi di allargare, ampliare i numeri della macellazione, oppure le scelte che dovevano essere fatte erano diverse. E mio padre, quando sono entrata in azienda io, insomma, è stato deciso di fare una scelta diversa, quindi di arrivare a macellare e trasformare solo i prodotti che servivano alla nostra lavorazione, quindi non vendere più all'industria. Quindi il nostro focus, che nei primi anni della nostra attività è stata la macellazione, a un certo punto è diventata la valorizzazione tramite la trasformazione dei prodotti, che fino ad allora rivestiva un ruolo marginale nel nostro lavoro, ecco. In questa trasformazione nasce e si sviluppa un'idea che viene portata avanti non senza difficoltà proprio da Elisa Pedrazzoli, quella di realizzare una linea di prodotti biologici che in un primo momento in azienda viene considerata con qualche riserva. Quando sono entrata in azienda io, un po' perché io non vengo da questa estrazione, diciamo, economica, veramente mi era piaciuta l'idea e il concetto del prodotto biologico, perché allora eravamo proprio agli inizi, anzi mi sono occupata io proprio di tutta la parte sia della certificazione del prodotto sia della presentazione dei primi prodotti che facevamo, i salami avevamo iniziato, quando ancora studiavo insomma, perché era una cosa che in azienda era vista un po' come l'ultima cosa vero importante, perché non occupava lavoro, no? Perché non avevamo clienti su questo prodotto, quindi era tutto un progetto nuovo. Ma Elisa Pedrazzoli ci crede, è un progetto che vuole assolutamente realizzare. A me non piacciono i numeri in generale. Ho fatto liceo classico, mi sono laureata in lettere antiche, insomma la mia idea era quella di fare tutt'altro che non lavorare in azienda, anzi io dicevo sempre che non avrei mai lavorato in azienda, questo infatti mio padre tutte le volte me lo ricorda, come mai. Invece, diciamo, questo progetto del bio, che alla fine era una cosa nuova, una cosa dove ci potevi mettere del tuo, e sicuramente c'era dietro anche un aspetto etico e anche filosofico importante, perché comunque riguarda anche il nostro stile di vita, le nostre scelte che facciamo. Così mi piaceva poterlo riproporre. E ci ho creduto in questo progetto e direi che è diventato anche poi la parte più importante oggi dell'azienda, perché comunque a noi la nostra azienda viene conosciuta proprio per la linea biologica. E quando la trasformazione dell'azienda viene completata, la linea di prodotti biologici è quella che maggiormente incontra le richieste del mercato, la chiave per entrare in alcune realtà che sarebbe stato difficile approcciare altrimenti e che permette anche ad una piccola azienda di avere qualcosa di particolare da offrire, anche se la gestione non è semplice. Beh sì, soprattutto agli inizi, perché allora viveva di, e anche oggi, viveva di momenti alterni di felicità. E infatti il fatto che noi ancora oggi facciamo la linea convenzionale è anche perché non c'è questa stabilità di mercato per quanto riguarda i salumi biologici, perché è ancora un mercato un po' altalenante, insomma è legato a un mondo vegetariano prevalentemente, a un mondo salutista, quindi salume biologico a volte viene visto anche come un controsenso, no? Perché poi dietro non viene letto bene il messaggio che porta il prodotto biologico. Oggi Salumificio Petrazzoli è un'azienda con filiera completa, che parte dall'allevamento e arriva alla distribuzione del prodotto, con allevamenti tutti nel territorio limitrofo, a cavallo tra la Lombardia e l'Emilia. È stata la nostra scelta perché, avendo gli allevamenti, ovviamente il nostro concetto è quello di valorizzare la materia prima che proviene dai nostri animali, ecco. Quindi questa è stata un po' la logica che ha mosso il discorso del ciclo chiuso. Abbiamo ripercorso lo stesso progetto anche nel biologico, e è stato molto impegnativo perché è difficilissimo fare maiali oggi allo stato brado, semibrado, o seguendo anche cose che possono sembrare semplici, banali, come che, non so, far nascere i maialini piccoli fuori dalla gabbia, però è una cosa che ci sta dando delle soddisfazioni. L'azienda è stata in parte danneggiata dal terremoto dello scorso anno, ma è riuscita a non sospendere la produzione. Diciamo, noi siamo a 8 km dall'epicentro, siamo in Lombardia, ma per una strada, perché praticamente la strada che sta di fronte all'azienda divide il confine tra l'Emilia e la Lombardia, quindi... E sicuramente l'anno scorso sono stati momenti non felicissimi, perché tutte le sicurezze che avevi sono proprio crollate, diciamo, nel vero e proprio senso della parola. Infatti anche parte dell'azienda, la parte vecchia, la parte più antica, insomma, abbiamo dovuto ricostruire tutto il tetto perché era in pericolo di crollo, ecco. Abbiamo dovuto spostare tutta la produzione, avevamo una parte nuova che non avevamo ancora reso operativo, cioè stavamo per entrare però non era ancora operativa, abbiamo spostato tutto lì e abbiamo continuato a produrre perché non volevamo fermarci, perché poi dopo ovviamente poni dei dubbi nei confronti dei tuoi clienti, no? Se di non essere più affidabile. 20 milioni di euro di fatturato, in crescita, per la maggior parte dovuto ai prodotti biologici e realizzato per l'80% in Italia, con una distribuzione anche sul mercato estero, soprattutto in Europa, Giappone, Russia, Polonia e Nuova Zelanda. Gli obiettivi sono di crescita sui mercati esteri, ma anche in Italia. Se la scelta è e resta quella della distribuzione attraverso il commercio al dettaglio, il desiderio è anche quello di avere un maggiore rapporto con il cliente finale. Mi accorgo che spesso noi non riusciamo a trasmettere al cliente finale quelli che sono i valori della nostra azienda, dei nostri prodotti, e che affidandoci, diciamo, a chi rivende, spesso sono le scelte non vengono fatte dal consumatore, ma vengono fatte prima di tutto dal negoziante o da chi ci compra i prodotti, no? Che alla fine decide per suo interesse, per sua inclinazione, per qualsiasi altra cosa deve mangiare il suo cliente, che è poi il nostro cliente finale. E quindi, non potendo noi lavorare con la pubblicità, perché comunque l'azienda non ha ancora le dimensioni per potersi far conoscere e fare campagne pubblicitarie, per poter dialogare con il cliente finale, fargli conoscere i nostri prodotti, stiamo pensando quali potrebbero essere eventuali cose. Diciamo, il web sicuramente è una di quelle strade che in tanti altri paesi funziona molto bene. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.